teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 11 settembre 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Cari ascoltatori, mettetevi comodi perché questa settimana andremo a parlare di fisica delle particelle, di fisica teorica. Parleremo fondamentalmente della costante di struttura fine e ne parleremo col professor Fiorenzo Bastianelli, professore associato di fisica teorica, modelli e metodi matematici presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna. Buongiorno, professor Bastianelli. Buongiorno. Professor Bastianelli, all'inizio della trasmissione cercheremo di parlare un pochino delle costanti fondamentali della fisica, che cosa sono, qual è la loro importanza nei modelli teorici. Nella seconda parte parleremo di quella che viene chiamata la costante di struttura fine, ma visto che stiamo cercando di parlare di fisica teorica, quindi di cose tecnicamente molto complicate, in 100 parole iniziali, prima di andare con il primo pezzo musicale, le voglio chiedere se dovesse spiegare che cos'è una costante fisica a quello che comunemente si chiama l'uomo della strada, anche se è piuttosto offensivo come definizione, ma diciamo a una persona comune che non abbia delle conoscenze di fisica, lei come la spiegherebbe? Costanti nella fisica. Dunque, la fisica in qualche modo cerca di descrivere le leggi della natura, facendo esperimenti, osservando quello che accade, cercando di collegare fenomeni diversi, introducendo delle opportune leggi. Cercando di formulare queste leggi della natura, si vede che in tutti i fenomeni dinamici in cui degli oggetti si muovono, ad esempio un grave che cade da una torre, ecco, ci sono delle costanti che entrano in queste equazioni, che assumono sempre lo stesso valore, e a queste costanti si rende conto che sono costanti, appunto sperimentalmente si dà il nome appunto di costanti. Costante significa qualcosa che non varia e tipicamente non varia rispetto al variare del tempo o dello spazio. Non so, storicamente direi che ad esempio Galileo, quando studiava la caduta dei gravi, vedeva che tutti i vari corpi cadevano con la stessa accelerazione di gravità. Quella poteva essere considerata a quel tempo una costante della natura e penso fondamentale, nel senso che non poteva essere dedotta da leggi più generali. Professor Bastianelli, la interrompo un attimo, ci andiamo a ascoltare un pochino di musica, poi torniamo in studio. Nella prima parte, come già detto, parleremo effettivamente di tutte le costanti, almeno proveremo a parlare delle varie costanti in fisica, le divideremo in dimensionali e adimensionali, e mentre nella seconda parte della trasmissione proveremo a parlare di una ricerca uscita qualche giorno fa su Archive, in cui si discute la costante di struttura fine, una costante adimensionale che sembra non essere stata costante nel corso della vita dell'universo. A questo punto musica, poi torniamo in studio e poi di nuovo a caccia al fotone. Words of confusion again. E bentornati in studio, cari radioascoltatori, qui a Caccia Fotone. Stiamo cercando di parlare di fisica teorica, uno degli argomenti che, come sapete, ci appassiona di più. E stiamo parlando questa volta di costanti. Dopo aver parlato per due volte l'anno scorso del metodo scientifico e più volte della fisica teorica e anche della teoria delle stringhe, questa volta cerchiamo di parlare delle costanti in fisica. Lo stiamo facendo col professor Fiorenzo Bastianelli, professore associato di fisica teorica, modelli e metodi matematici presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna. Professore, ci siamo lasciati che stavamo parlando di una delle costanti fondamentali della fisica, la costante, quella che viene definita la costante di gravitazione universale. Quali sono le altre costanti importanti in fisica e se riusciamo a fare una distinzione fra quelle che chiamiamo costanti adimensionali, che non sono nient'altro che dei numeri secchi, e invece quelle costanti che vengono definite dimensionali, cioè quelle costanti che hanno accanto a loro moltiplicate, per esempio, misure come tempo, spazio, energia. Cioè, tanto per intenderci, il numero 3 sarebbe una costante adimensionale e 3 secondi invece sarebbe una costante dimensionale perché è moltiplicata per una misura di tempo. Forse per focalizzare un po' quello che stavamo dicendo prima, volevo semplicemente completare qualcosa, perché ero arrivato a discutere dell'accelerazione di gravità, che si poteva in qualche modo interpretare come costante fondamentale della natura ai tempi di Galileo, ma subito dopo, con le analisi fatte da Newton, che in qualche modo unificò la gravità terrestre con la gravità, che descrive il moto dei pianeti, si poteva vedere che l'accelerazione di gravità sulla Terra poteva essere derivata da una costante che oggi riteniamo ancora più fondamentale, che descrive proprio la forza di attrazione dei due corpi e che è parametrizzata da una costante che è chiamata G di Newton, costante di gravitazione universale, che è una costante che appunto parametrizza la forza tra due corpi in dipendenza delle masse dei corpi, della loro distanza e così. Ecco, questa è una costante che effettivamente ha delle dimensioni ben precise, deve relazionare delle grandezze che non sono omogenee, forze con masse e diviso distanze, e quindi ha delle unità di misura ben precise. Questa è una costante che pensiamo sia una costante, si pensa sia è considerata una costante fondamentale della natura, e ha delle dimensioni. Dobbiamo utilizzare delle misure campione per dire che valore numerico abbia. Ad esempio, se invece di usare il metro si usa il centimetro, chiaramente il suo valore numerico cambia, però ci rappresenta sempre questo fattore di, in qualche modo, di correlazione tra delle grandezze che non sono omogenee tra di loro. Ma perché poi effettivamente queste costanti prendono il nome di costanti fondamentali e non semplici costanti? Ecco, fondamentale nel senso che io direi che non c'è in linea di principio nessuna possibilità, neanche teorica, di poterla derivare da una struttura ancora più elementare del mondo. Le nostre leggi fisiche che conosciamo descrivono in qualche modo tutti i fenomeni della natura riducendoli in qualche modo a dei fenomeni elementari. Professore, mi voglio fermare un attimo su questo. Abbiamo detto che le costanti sono fondamentali in fisica, ma se per esempio la costante di gravitazione non è derivabile da nessuna equazione, ma è derivabile solo empiricamente, chi ci dice esattamente che la costante G ha proprio quel valore e non un altro? Bene, che è costante è una verifica sperimentale. Dopo aver sviluppato la sua legge di gravitazione universale, si è applicata questa legge a descrivere il moto di pianeti, poi il moto di galassie e di oggetti che hanno scale dimensionali sempre più grandi, e si è visto che la descrizione teorica coincideva con le osservazioni. Quindi questo ha dato supporto al fatto che questa costante sia la stessa sia ora, sia qui sulla Terra che a distanze molto grandi. Tipicamente si procede così, uno estrapola i risultati che sono stati testati in certe regioni dello spazio, del tempo, a regioni molto più grandi. Però questa estrapolazione poi non è detto che debba funzionare, stiamo applicando le leggi conosciute a domini più grandi, e occorre poi verificare se questa estrapolazione è corretta o meno. Per quanto se ne sa, la costante di Newton sembra essere costante in tutti i regimi in cui è stata testata fino ad ora. però ci sono varie teorie alternative, ipotetiche, che assumono che questa costante vari per spiegare in modo alternativo alcuni misteri della natura che non hanno ancora una spiegazione univoca. Non so, sto pensando all'energia oscura, alla materia oscura, cose di questo genere. Ecco, quindi per fare il discorso più un po', diciamo, per includere quello, forse la descrizione teorica che tipicamente ha in mente un fisico teorico delle alte energie, nel senso delle particelle elementari, il quadro che emerge è che tutti i fenomeni della natura oggi conosciuti sono ridotti, diciamo, a un modello che chiamiamo un modello standard associato alla gravitazione. Il modello standard delle particelle elementari descrive tutta la materia che si vede nell'universo in termini di un certo numero di particelle, che sono i quark e leptoni, particelle che hanno lo spin in mezzo, si chiamano fermioni di solito. L'esempio più semplice del leptone sarebbe l'elettrone, i quark invece sono i costituenti fondamentali del protone. Poi ci sono dei mediatori delle forze, sono il fotone, come il titolo della sua trasmissione, i gluoni e le particelle che mediano l'interazione debole. Queste sono tre delle quattro forze fondamentali che oggi conosciamo. Manca una particella che al momento viene ricercata in un laboratorio che sta a Ginevra, il CERN, hanno uno strumento che si chiama Large Hadron Collider, LHC, cercano questo tassello mancante che è la particella di Higgs. Ora, queste particelle dovrebbero in qualche modo spiegare tutti gli altri fenomeni e tutte queste interazioni sono parametrizzate da alcune costanti, le chiamiamo proprio costanti, perché in tutti gli esperimenti sembrano che non dipendono né dal tempo né dallo spazio, quindi sono a tutti gli effetti costanti. Una di queste qua, ad esempio, è la costante, diciamo, dell'interazione elettromagnetica, la costante alfa di cui volevamo parlare e di cui parleremo più avanti anche, la costante di struttura fine. Professore, le faccio il domandone. Cosa sarebbe la fisica se non ci fossero delle costanti da moltiplicare, da dividere all'interno delle equazioni che descrivono le forze e il lavoro? Cioè, la fisica sarebbe più o meno di quella che oggi senza i valori delle costanti che abbiamo all'ultima pagina del libro? Come dire, il fatto che queste costanti, diciamo, parametrizzano in qualche modo i vari fenomeni che possono essere presenti. E visto che c'è la forza elettromagnetica, bisogna collegare, ad esempio, la forza a delle proprietà intrinseche delle particelle che subiscono questa forza alla loro distanza, la forza di Coulomb, ad esempio, e per rendere omogenee queste grandezze si introduce una costante che in qualche modo rende paragonabili il lato destro e il lato sinistro di un'equazione. E queste costanti in qualche modo rappresentano la forza, l'intensità della forza che si vuole descrivere. Io direi che queste costanti quindi parametrizzano tutti i possibili fenomeni di cui vogliamo descrivere in natura. Molte di queste costanti, che magari possono parametrizzare un certo fenomeno, se poi possono essere dedotte da fenomeni microscopici più elementari, bene, saranno dedotte e si dice che quella costante in considerazione non era fondamentale, ma può essere dedotta da costante ancora più, diciamo, più elementari, più fondamentali. Come dicevo, nel modello standard delle particelle elementari ci saranno grosso modo una trentina di costanti che al momento di oggi consideriamo elementari o fondamentali. Sono di natura adimensionale, sono dei numeri puri, un po' come la costante di struttura fine. E a tutti gli effetti, per la fisica delle particelle elementari su scale di tempo e di spazio umane, è stata effettivamente misurata essere una costante fino diciamo, alle ricerche di cui forse parleremo più avanti, che su distanze cosmologiche sembra che sia variata sia nel tempo che nello spazio, ma su ordini di scale temporali maggiori, direi di 2 miliardi di anni. Insomma, professore, detta in termini più semplici, le costanti non sono nient'altro che un tratto distintivo, o almeno quella targa che identifica quella particolare forza. Senza la costante noi non sapremmo effettivamente di qual è l'intensità di quella particolare forza in quel determinato momento, in quel determinato spazio. Esatto, questa è una visione, diciamo, forse si potrebbero dividere le costanti in due classi, diciamo. Forse le costanti universali che in qualche modo ci permettono di descrivere le nostre teorie. Ce ne sono, diciamo, la maggioranza dei fisici concorda, diciamo, che ci sono forse tre costanti fondamentali strutturali. Possiamo dire la velocità della luce, pensata come velocità limite di propagazione delle interazioni. Poi c'è la costante di Planck, una grandezza trovata da Planck che ha aperto le porte alla nostra comprensione della meccanica quantistica, che sembra agire per particelle molto piccole. E la terza è la costante di Newton, che è la costante della gravitazione universale. Ecco, queste potrebbero essere, diciamo adesso, chiamate come delle costanti che descrivono in qualche modo il palcoscenico su cui avvengono i fenomeni fisici. Diciamo, questo in qualche modo è il punto di partenza in cui cerchiamo di costruire, di mettere in gioco gli altri attori, che poi sono, diciamo, le forze che agiscono tra le varie particelle elementari. Ecco, queste, diciamo, forse sono di una natura diversa rispetto alle altre costanti che compaiono, ad esempio, nel modello standard, di cui una è proprio la costante di struttura fine. Professore, a questo punto ci fermiamo un attimo, riposiamo un pochino il cervello, visto che il mio personalmente sta andando in fumo e immagino sia andato in fumo anche quello dei nostri radioascoltatori. Nella seconda parte della trasmissione, come già anticipato, parleremo della costante di struttura fine che abbiamo provato a introdurre in quest'ultima parte e parleremo di due esperimenti avvenuti al telescopio Keck e al Very Large Telescope. Dai dati del Keck, dal telescopio Keck, alfa, la costante di struttura fine, sembra essere stata un pochino più piccola nel passato, mentre presso il Very Large Telescope l'alfa sembra essere stata un pochino più grande nel passato. E cercheremo di parlare di questo argomento, parleremo della costante di struttura fine e cercheremo di capire come mai la costante in fondo potrebbe anche non essere costante. Musica, poi torniamo in studio e poi di nuovo a caccia al fotone. Hazy day is fogging up my brain. Life's in a mess, but how can I explain it? I got my bag, the papers and the tools. When the special call in J-Bus school. Bentornati in studio, cari radioascoltatori, siamo sempre al telefono col professor Fiorenzo Bastianelli, professore di fisica teorica, modelli e matematici presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna e stiamo parlando con lui delle costanti in fisica. Nella prima parte abbiamo parlato delle costanti in fisica, ma tutta la trasmissione è stata impostata effettivamente sulla cosiddetta costante di struttura fine. Perché è stata impostata su questo argomento? È stata impostata su questo argomento perché due dati usciti qualche giorno fa sembrano non essere coincidenti. Il dato uscito dal telescopio Keck e dal telescopio VLT, il Very Large Telescope, sembrano essere in collisione. Di quali dati stiamo parlando? Di quali valori stiamo parlando? Stiamo parlando dei valori della cosiddetta, appunto, costante di struttura fine. Ecco, detto in parole povere, sia il telescopio Keck sia il telescopio VLT avrebbero rilevato delle piccole variazioni nel passato di alfa, ma alfa, secondo il telescopio Keck, sarebbe stata un pochino più piccola nel passato, mentre il telescopio VLT avrebbe rilevato una variazione al contrario, cioè alfa nel passato sarebbe stata un pochino più grande. Allora, cominciamo dall'inizio. Perché alfa è una costante adimensionale? Cioè, perché alfa non ha in calce dei parametri di tempo, di spazio o di energia? Beh, direi che la costante di struttura fine è appunto una costante che ci parametrizza la forza intrinseca elettromagnetica tra le varie particelle. Ci parametrizza il fatto che esiste una forza fondamentale della natura. A questo punto noi la chiamiamo appunto fondamentale perché non può essere dedotta da, diciamo, da strutture ancora più semplici. E questa forza è parametrizzata appunto da un'intensità che è definita da un parametro che è misurato in natura essere, diciamo, un parametro dimensionale perché collega grandezze che sono omogenee e quindi è parametrizzata da un numero puro. E ci dice che questa intensità intrinsecamente è caratterizzata da questo numero che vale 1 su 137, più o meno misurato negli esperimenti, e caratterizza l'intensità della forza elettromagnetica. In tutti gli esperimenti che sono stati fatti in laboratorio, questa costante è sempre stata vista essere costante, diciamo le misure fatte per, ad esempio, per vedere come magari avvengono le transizioni tra i livelli atomici dei vari elettroni, questi emettono sempre delle radiazioni quando transiscono da un livello energetico ad un altro, e l'energia, diciamo il fotone emesso a una certa frequenza, che è proporzionale appunto alla differenza di energia tramite la costante di Planck, e questa emissione dipende in un modo ben preciso dalla costante di struttura fine, questo parametro alfa, che è risultato sempre essere costante. Quindi questa è una, diciamo, una verifica sperimentale che tutti questi fenomeni diversi sono parametrizzati da quest'unico parametro. Per cui l'assunzione è che questo parametro sia costante sia nel tempo e nello spazio, e dietro questa costante si è stata costruita appunto questa teoria fisica dell'elettrodinamica quantistica, che poi immersa nel modello standard, diciamo inglobata in un modello un po' più generale, che in qualche modo corrisponde e riproduce tutti gli esperimenti che sono stati fatti e è consistente con l'assumere la costanza di questo parametro. Per cui si dice appunto che questa è una delle costanti fondamentali del modello standard. Allora, professor Vassinelli, il problema di questa costante, giusto per tornare al nostro argomento, è che sembra non essere costante, perché, come abbiamo detto all'inizio, sia il telescopio Keck sia il telescopio VLT sembra che abbiano rilevato delle piccole variazioni su alfa. Ora, visto che la costante di struttura fine dipende dalla carica elettrica dell'elettrone, dalla permittività elettrica nel vuoto, dalla costante di Planck e dalla velocità della luce del vuoto, se alfa è stata un pochino più grande o un pochino più piccola, questo vuol dire che almeno una di questi valori è stato un pochino più grande o un pochino più piccolo nel passato. È giusto questo ragionamento o è sbagliato? Diciamo, io forse lo direi in un modo diverso, diciamo che uno può collegare questa costante di struttura fine appunto alla carica elettrica al quadrato diviso la costante di Planck e così via, però possiamo pensare che è questa costante quella fondamentale, le altre sono grandezze, diciamo, in qualche modo pensare che H tagliato C, la costante della luce, sono semplicemente un modo per ridefinire in un modo più corretto qual è la costante che caratterizza l'interazione elettromagnetica. Io direi che se si trova che questa costante in realtà non è costante su scale cosmologiche, Ebbene, questo qua significa che stiamo estrapolando una teoria fisica molto ben solida all'interno di certi campi di applicazione a distanze e tempi cosmologici, e questo non è in qualche modo garantito che debba funzionare. Questo qua per me ci fa vedere il fatto che delle leggi fisiche che funzionano molto bene in alcuni campi di applicazioni non possono essere estrapolate in un modo indolore in situazioni più complesse. Questo, se volete, è un segnale che ci dice che la teoria del modello standard dovrà essere estesa a una teoria ancora più grande. Infatti c'è un'enorme attività su teorie di grandi unificazioni, c'è chi parla addirittura di teorie del tutto, questa specie di sacro graal di sperare di ottenere la teoria che descrive tutto il possibile, l'esistenza di, essenzialmente di tutto il cosmo, di tutti i fenomeni fisici che possono avvenire in natura. Ora, forse questa è un'idea un po' troppo, diciamo, estrema, diciamo, sperare di poter conoscere tutto quanto forse non è fattibile, direi. E tipicamente, comunque, quello che si può dire è che la fisica è una scienza sperimentale, si cerca di misurare e parametrizzare i fenomeni della natura, si verifica la loro efficacia in certe condizioni sperimentali, e poi si assume che queste valgono anche in situazioni più generali, però bisogna ridiscutere se questa struttura va bene o dovrà essere modificata. Il fatto che alfa sembra variare, e questo qua, diciamo, è un risultato molto interessante, che però dovrà essere in qualche modo anche verificato da gruppi sperimentali alternativi per essere sicuri che non ci siano errori sistematici o di misura. E questo suggerisce che in qualche modo le teorie che conosciamo oggi dovranno essere estese per cercare di capire che cos'è che fa variare alfa, quali sono le equazioni del moto dinamiche che ci descrivono l'evoluzione di questo alfa, che può, abbiamo detto, sembra, ci sono queste indicazioni che può variare sia da un punto di vista temporale, e la luce che vediamo che ci arriva sulla Terra ha viaggiato per tantissimo tempo nel cosmo prima di arrivare a noi, quindi risaliamo a fenomeni che erano accaduti all'inizio, diciamo a tempi molto vicini a diciamo se non altro al Big Bang. Ecco, io certe volte rimpiango di non avere a disposizione un video piuttosto che un audio, perché in realtà noi siamo in collegamento, in video collegamento via Skype, e dietro la sua schiena c'è una bellissima lavagna con una marea di equazioni assolutamente complicatissime, e queste equazioni cercano di raffigurare quella che lei ha appena definito come la teoria del tutto. Noi l'anno scorso o due anni fa, adesso non ricordo con precisione, abbiamo avuto qui ospite Gabriele Veneziano, e il dottor Veneziano ci ha un po' spiegato qual è stata la genesi della teoria delle stringhe, un pochino la cosiddetta teoria del tutto. Quali sono effettivamente le varie teorie che cercano di unificare le varie forze presenti in natura per cercare di arrivare poi a delle soluzioni che siano universali, cioè per arrivare finalmente a calcolare il perché le costanti siano costanti e perché le costanti abbiano quel tipo di valore? Beh, diciamo, ora forse il nome teoria del tutto non è un nome che a me piace moltissimo, perché è un po' troppo ambizioso e non so se è nato in un modo forse scherzoso e poi qualcuno l'ha preso in un modo un po' troppo serio, perché pretendere di avere in mano una teoria del tutto in realtà è una pretesa sbagliata, perché nessuno l'ha in mano. Forse l'esempio più semplice, conosciuto credo a molti ascoltatori, è la teoria delle stringhe, che poi è evoluta in quella che ora si chiama teoria M, dove M a volte sta per mistero o membrana o madre di tutte le teorie a seconda dei gusti, la cui formulazione teorica è ancora incompleta. Quindi vediamo alcuni punti di questa teoria grandiosa che potrebbe o non potrebbe essere applicata alla natura, potrebbe rimanere solo come una cosa puramente matematica. Sa di fatto che questa teoria delle stringhe sembra includere il modello standard, cioè può includere una descrizione delle particelle elementari come conosciamo noi, includere la forza di gravità e per di più mostrare anche che quelle che vediamo nel modello standard come costanti fondamentali, nel senso proprio grandezze che non variano dello spazio-tempo, quindi costanti, in realtà sono immerse in questa teoria più grande come in qualche modo valori di equilibrio di alcune variabili. Quindi in qualche modo sembra quasi naturale nel contesto della teoria delle stringhe che alcune di queste costanti fondamentali in realtà possono variare nell'evoluzione cosmologica dell'universo. Diciamolo anche, in realtà il fatto che alfa sia stata un pochino più grande, un pochino più piccolo, non l'ha stupita troppo. Per quanto questa, diciamo, questa misura del variare di alfa sia sorprendente, diciamo, non è in qualche modo del tutto inaspettata, guardando alcuni modelli che si pensa possano essere rilevanti per la natura. Io direi comunque allo stato attuale la teoria delle stringhe è un'ipotesi molto interessante in cui si possono fare dei calcoli ben precisi, ben definiti, che però non è stata testata sperimentalmente, quindi è una congettura molto bella, ma rimane a livello di teoria. Senta, professor Bastianelli, le faccio l'ultima domanda per concludere la trasmissione odierna di Caccia Fotone. Lasciamo per un attimo fuori la teoria delle stringhe, quindi la legge gravitazionale, fermiamoci solo sul modello standard, quindi forza forte, forza debole e forza elettromagnetica unificate. Solo nel modello standard, quindi ripeto, solo nel modello standard, se venisse dimostrato che la costante di struttura fine ha avuto delle piccole variazioni nel tempo, questo cosa vorrebbe dire? Diciamo, a questo punto direi che in qualche modo il modello standard di per sé le interpreta queste costanti appunto come costanti, anche se poi tecnicamente all'interno del modello standard si introduce il concetto di costante d'accoppiamento che corre, running coupling constant. Diciamo, una cosa tecnica che però permette di risolvere, descrivere le teorie in un modo più efficace e che ha permesso in qualche modo di essere sicuri che la descrizione della forza forte fatta all'interno del modello standard, il sottosettore si chiama QCD o cromodinamica quantistica, prevede appunto il fatto che ad alte energie i quark e i gluoni possono interagire quasi come particelle libere. E alcuni anni fa, nel 2004, effettivamente sono stati insigniti dei premi Nobel dei ricercatori che hanno scoperto questa proprietà particolare della QCD. Tornando alla domanda che lei mi faceva, che cosa significa il fatto che la costante di struttura fine molto tempo fa era forse o più piccola o più grande, dipende in che direzione dell'universo magari andiamo a guardare? Non sappiamo, diciamo. Quello che si può fare è applicare il modello standard in quelle situazioni, tenendo conto di questo cambio della costante d'accoppiamento e vedere magari le conseguenze che ha. Ad esempio, questo cambierebbe in qualche modo gli spettri di emissione dei vari elementi che potevano essere presenti. Però questo lascia aperto il fatto che anche tutte le altre costanti d'accoppiamento presenti nel modello standard potessero avere valori diversi. E tecnicamente è molto più difficile cercare di tracciare qual è il comportamento temporale o spaziale su distanze cosmologiche, diciamo, di tutti, chiamiamoli 30 accoppiamenti elementari presenti nel modello standard. Professor Bastianelli, si conclude così con questa sua ultima risposta, questa puntata di Cacciafotone. Intanto la ringrazio per la pazienza con cui ha voluto rispondere alle nostre domande, ringrazio anche la pazienza di tutti i nostri radioascoltatori che ci hanno ascoltato o tramite radio oppure tramite podcast. Do l'appuntamento come al solito sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie professor Bastianelli. Grazie.